Bene, dopo questo video, passiamo la parola ad Andrea Merli. Ripeto, è stato per tanti anni coordinatore del master tra l'Università di Pavia e quella di Betlemme, ma anche molto vicino al VIS in ogni senso, Andrea. Grazie.